America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. 1861, un anno come sappiamo importante, i 150 anni della Unità d'Italia, anche i 150 anni dell'inizio della guerra di secessione qui in America. Vi avevo detto che avrei dedicato occasionalmente delle puntate a questo straordinario momento storico, anche a questa coincidenza di queste due ricorrenze che si ricordano, si celebrano in modo parallelo sia in Italia che in America. E dunque oggi voglio parlarvi soprattutto della ricorrenza qua in America con un libro straordinario, ordinariamente bello, un libro molto particolare. Si chiama A World on Fire, l'autore è Amanda Foreman, una storica inglese, alcuni di voi la ricorderanno perché ha già scritto un bestseller, Georgiana, the Duchess of Devonshire, che poi è diventato un film The Duchess, uscito anche con questo titolo in Italia, e adesso ha scritto un libro sulla guerra civile americano, un libro straordinario che ha ricercato per quasi 10 anni. Io ricordo di essere andato una volta a casa sua mentre ancora lavorava, mentre ancora scriveva questo libro, Amanda Foreman, e pensate, aveva un'intera parete ricoperta da archivi che erano rappresentativi ciascuno della ricerca su un certo personaggio, su un particolare momento della guerra di secessione, su una serie di coincidenze politiche, militari, economiche, sociali che compaiono in questo libro. Ci sono 197 personaggi diversi che però sono tutti legati l'uno all'altro, quindi è un libro non con uno, due o tre protagonisti ma con 197 protagonisti, credo che sia un record, e sono, come dicevo, tutti legati l'uno all'altro: inglesi, americani, francesi, italiani, persino tedeschi. Si tratta di un mondo straordinariamente ricco di emozioni vitali, e un po' come se il lettore fosse immerso in un'intera comunità, come se guardasse uno spettacolo e allo stesso tempo ne facesse parte. Per ognuno di questi personaggi ovviamente bisogna fare delle ricerche specifiche, come se fosse lui l'unico eroe della storia. E dunque abbiamo ai microfoni di America 24 Amanda Foreman, le chiedo di raccontarci la storia di uno di questi personaggi. Credo che 197 non ce la faremo. Hello Amanda, how are you? Buongiorno. Ecco, una delle storie che ha scelto appunto è di un inglese che si chiama Sir Parsley Window, ed era uno dei volontari, pensate, che si unì a Garibaldi nella missione dei Mille per andare a liberare la Sicilia, e quindi ricorda questo personaggio inglese che già combatté con Garibaldi nelle giubbe rosse, e siccome era stato un eroe sul campo, il re Vittorio Emanuele, pensate, gli diede una onorificenza speciale, cosa di cui andava estremamente fiero. E dunque questo signore a un certo punto arriva in America per unirsi alle truppe nordiste, ma altri come lui, che avevano combattuto con Garibaldi, invece decisero di unirsi ai confederati perché pensavano che ci fosse così una difesa dell'indipendenza di questi stati. E allora qual è l'episodio curioso che ci racconta la Foreman? È che dopo una battaglia in cui ci furono nordisti e sudisti che se le diedero di santa ragione, il signor Parsley Window fu catturato dai sudisti, portato al quartiere generale, dove si incontra con chi? E si incontra col maggiore Robert Thaw Witt, che era un americano della Louisiana, quindi del sud, che aveva combattuto anche lui con Garibaldi. E quando si riconobbero, Witt disse: ma insomma, caro mio, cosa stai facendo qui? Combatti dalla parte sbagliata. E Parsley gli rispose: ma buongiorno, cosa fai tu, amico mio? Sei tu a combattere dalla parte sbagliata. L'America è un paese che dà sempre grandi garanzie del rispetto della giurisprudenza, e dunque l'amicizia servì a ben poco, perché il signor Window poi non fu liberato. La regola, dice ancora la Foreman, è che se tu venivi catturato dovevi giurare di non combattere per un po' e poi magari venivi scambiato con qualche altro personaggio. Many people have been inspired by Garibaldi. By 1861, Garibaldi was not just a national hero to the Italians, but an international hero to the world. And his campaign to liberate Italy inspired many people and many nations with the same ideal for independence. Ecco, io continuo a insistere con la Foreman, visto che così celebriamo entrambi questo 150esimo anniversario, su Garibaldi, perché Garibaldi, l'eroe dei due mondi, è un uomo che è straordinariamente conosciuto qua negli Stati Uniti d'America, e pensate che gli fu offerto di andare a combattere, di venire a guidare qui l'esercito americano, o quantomeno alcuni dei battaglioni. E dunque la Foreman ci racconta il dettaglio di questa storia, ci dice che nel 1861 Garibaldi non non era soltanto un eroe nazionale italiano, ma era un eroe mondiale, era conosciuto a livello internazionale. La sua campagna per liberare prima la Sicilia e poi l'Italia ispirò una gran quantità di persone e ispirò lo stesso ideale dell'indipendenza. Perciò, quando ci fu la guerra civile americana, molti soldati, uomini, militanti si sentirono ispirati a combattere per il Sud, anche se c'era il problema della schiavitù, perché pensavano che fosse una situazione simile a quella italiana. Il Sud mirava l'indipendenza. Inoltre, la posizione del Nord all'inizio della guerra era piuttosto ambigua, nonostante la guerra civile divenne in effetti una guerra contro la schiavitù. Però all'inizio il governo del Nord, a Washington, Lincoln, disse che la guerra era per mantenere l'Unione, non per abolire la schiavitù. E così, quando il segretario di Stato William Henry Seward inviò a Garibaldi una lettera per chiedergli di guidare le truppe nordiste come generale, Garibaldi rispose in modo inequivocabile. Disse che lo avrebbe fatto a due condizioni. La prima: doveva essere nominato comandante supremo, commander in chief di tutte le forze armate del Nord. La seconda: Lincoln avrebbe dovuto annunciare l'immediata liberazione di tutti gli schiavi, o comunque l'obiettivo finale di liberare tutti gli schiavi. E Lincoln, devo dire, forse non necessariamente a torto, non cedette né su un punto né sull'altro, e dunque Garibaldi alla fine non venne mai in America a partecipare alla guerra di dipendenza. C'è l'idea che possa essere stata in qualche modo un'occasione perduta, perché all'inizio c'era una situazione molto confusa, e se Garibaldi fosse venuto e avesse mobilitato le forze in un certo modo, proprio in virtù di questa sua straordinaria presa, beh, forse la guerra sarebbe durata meno e forse non ci sarebbero stati i 600.000 morti, oltre 600.000 morti, che sono caduti in questa guerra fratricida. Ma ovviamente non lo sapremo mai, visto che poi la storia non si costruisce sulle ipotesi. And I can understand that. Why should Garibaldi, one of the great generals of 19th century Europe, agree to be under the command of an American general, none of whom had fought any war larger than the minuscule war of the Mexican-American War in 1848? And we're now talking 1861. It would have been madness. La Foreman in qualche modo giustifica Garibaldi, e qui dice che siccome Garibaldi era uno dei più grandi generali in Europa del XIX secolo, secondo Lincoln avrebbe dovuto accettare di sottoporsi alle decisioni di un generale americano che al massimo aveva combattuto in una guerra col Messico nel 1848, e dunque non era da lui. Per farci capire quale fosse la presa di Garibaldi, la Foreman ci ricorda che ci fu una visita a Londra di Garibaldi nel 1863, dove questo mito di quello che lui aveva fatto anche in Sud America era molto conosciuto. Ecco, fu accolto da oltre 1 milione di persone che si riversarono nella strada per vedere il passaggio della sua carrozza. E la Foreman qui conferma e dice che sono convinta che se Garibaldi fosse venuto negli Stati Uniti per guidare l'esercito, non ci sarebbero stati quei problemi che ci sono stati nel raccogliere i volontari. Il Nord ebbe enormi difficoltà nel trovare i volontari e quindi di fatto istituì la leva che portò a violente rivolte nel Nord, anche a New York, nel 1863. Dunque, pensate, tornando a quello che si diceva prima, se Garibaldi fosse venuto, forse l'America non avrebbe istituito la leva, perché aveva questa straordinaria forza di trascinare i volontari perché si arruolassero, e forse, chissà, il famoso manifesto con lo zio Sam, col cappello, con la bandiera americana, con l'indice che punta e dice I want you, ti voglio, per venire a combattere per difendere il tuo paese, chissà, magari non sarebbe mai nato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. La band di Gwen Stefani, i No Doubt, è attualmente al lavoro sul nuovo album che arriva a 10 anni dall'ultimo Long Plane. Rock Steady del 2001. A produrre il disco sarà Major Lazer, già al lavoro con Madonna e Depeche Mode. They No Doubt Don't Speak. The